Ho acceso un falò nelle mie notti di luna per richiamare gli ospiti, come fanno le prostitute ai bordi di certe strade. Ma nessuno si è fermato a guardare e il mio falò si è spento. Vai ad aprire. Perché non ci vai tu? Che domande, lo sai che non posso alzarmi. Ma guarda, e comunque toglitelo dalla testa. Oh, cerca di moderare i termini, hai capito? E tu smettila di comandarmi. Comandarti? Solo per via delle mie condizioni. Oddio, che fastidio questo busto ortopedico. Io credo che tu abbia stretto troppo. Dai, lascia stare, tanto ora è inutile toccarlo. Non è inutile, invece. Metto a fare un caffè. Ti va? Dove hai messo la macchina del caffè? Non si trova nulla qui dentro. Perché non hai aperto la porta? Ah, le vertebre sono schiacciate, hai presente? Ho come un'impotenza funzionale e certi movimenti in particolare No, cazzo. Hai visto che ore sono? No, che ore sono? L'appuntamento è andato. Anche oggi? Eh sì, anche oggi. La macchina del caffè è qui. La macchina del caffè è qui. La macchina del caffè è qui. Senti, dovremmo metterci d'accordo comunque. O tu o io. È stata tua l'idea del caffè. Ma io non sto parlando del caffè. L'appuntamento, diamine. Ah, l'appuntamento. Non pressare troppo la polvere del caffè. Non mi piace ma, forte. Ma che fai? No, non rovesciare. Stai rovesciando il caffè a terra. Tu mi stai sfidando, vero? Sembra che davanti al caffè le tue vertebre abbiano smesso di lamentarsi. Un'idea ce l'avrei. E allora sentiamola, dilla. Puntiamo un orologio. Un orologio? Che cazzata. Senti, l'hai stretta tu la macchina del caffè. Non riesco proprio a svitarla. Il dolore mi impedisce di dare forza alle braccia. Deve essere proprio il trapezio ad essersi paralizzato. Non è affatto una cazzata. Un orologio, sì. Per non dimenticare l'appuntamento. Ma io a volte penso che tu sia matta. È l'ora della pillola. Hai visto la guarnizione? È fusa oramai. È per questo che non riuscivi a svitarla. Il trapezio. Oh, guarda che il mio trapezio è letteralmente paralizzato, hai capito? Ma senti, volevo anche farti leggere una notizia. È sul quotidiano di oggi. Vieni, guarda. Graduatorie speciali per gli inquilini sfrattati. Non mi interessano i giornali. No, non l'ho ancora letto. Ma perché lo strappi? Gli inquilini sfrattati sono centinaia, lo sai? Ed io che pensavo. Dai, per favore, passami le pillole. Apri la bocca che te le lancio. No. Dai, prendila. Finiscila, smettila, non ce la faccio. Non mi va affatto di giocare con te. Tu vuoi farmi incazzare oggi. Non rispetti il mio dolore. Pensi che io stia fingendo, vero? Dillo, dai, dillo. Guarda che io posso cacciarti quando voglio, eh. Non dimenticare che sei mia ospite. Ospite? Prendo l'acqua per le tue pillole. Eccola. No, l'hai buttata per terra. Almeno il caffè me lo porti? Sì, sì, il caffè. Ci penso io allo zucchero, ci penso io allo zucchero, ci penso io allo zucchero. Dai, no, non farlo, non buttarlo a terra, per favore, no. No, lo zucchero, no. L'hai buttato a terra. Hai rovesciato a terra il caffè, lo zucchero, l'acqua. Guarda che pantano che c'è. Ma quanta ce n'hai messa nel bicchiere? Non ho rovesciato nulla, non cominciare. Ma guarda, per terra è tutto bagnato. Ho riempito il bicchiere, punto e basta. Ti sei alzato? Ma non dovevi stare seduto tu? Dov'è finito il tuo male alla schiena? Stupido, guarda in alto. L'acqua scende dal soffitto. Hai ragione, lo vedo benissimo. Deve essere una perdita. Te ne sei accorto finalmente? No, è che, sai, iperestendere il capo mi provoca dei capogiri. A terra riesco a guardare, ma in alto un dolore proprio... Maledette tubature. Deve essere una questione di guarnizioni proprio ai congiungimenti dei tubi. Prendo uno dei tuoi stracci, ti aiuto a pulire a terra. Ok, brava, tu pensa ad asciugare. Io prendo un secchio da mettere sotto la perdita. Aia! No, no, non posso. Pensa tu al secchio, per favore. Ah, oddio. Ora che fai? Perché mi stai toccando? Ma cosa ha la mia faccia che non va? Barba lunga. Hai bisogno di essere rasato. Ma smettila. Cazzo, però io te lo dicevo, eh. Questo palazzo ha il destino segnato. Ricordi che te lo dicevo? Io non volevo venirci ad abitare. Fai piano con quel rasoio. Sì, ma ci siamo venuti. Facciamo spesso cose che non desideriamo fare. E altrettanto spesso siamo costretti a non fare cose che invece desideriamo fare tantissimo. Questa si chiama sfiga. E tu vuoi tagliarmi il collo per questo? Non dipende da me. Non avevamo alternative. L'appartamento ce lo hanno assegnato. E poi i miei crolli vertebrali ci hanno proiettato in cima alla graduatoria. Non devi dimenticare, cara mia, che il mio dolore cronico è stata anche la tua salvezza. E tu? Chiami questa specie di grotta? Appartamento? Ma lo hai mai visto un appartamento? Adesso non fare la sofisticata, dai, è sempre un tetto sulla testa. Ah, sì, sì, un tetto sulla testa. Gli infissi sono andati, entra aria dalle finestre. La caldaia è guasta e per avere acqua calda dobbiamo farne uscire litri e litri dal rubinetto. Dobbiamo mettere a norma l'impianto elettrico, sai? Se non vogliamo rimanerne stecchiti. E gli scarichi del bagno? E le guarnizioni della doccia? E il matto di sopra? Oddio. Ma lo sai che questa mattina ancora stava di nuovo per basta rovesciare acqua sulle scale? Basta con questa storia. Sta diventando un'ossessione per te. Il matto. Ma che matto? Cos'hai contro di lui? A me sembra uno a posto. Non rompe i coglioni a nessuno. Dai, dai, passami le pillole che questo dolore mi sta veramente dando fastidio. La barba? La finirai dopo. Ora raccogli le pillole che hai buttato a terra, per favore. Guarda che quello di sopra non è a posto, è matto. Uno che non fa altro che annaffiare i suoi vasi. È ossessionato da quei maledetti vasi. E sai quanta acqua ci butta dentro? No, io non lo so. Vuoi dirmelo tu, per favore? Quali sono le pillole? Le bianche, le gialle o le blu? Ah, ma allora sei proprio stupida. Le bianche, quelle gialle sono al mattino, prima della colazione, e quelle blu di sera, prima di andare a letto, ok? No, che non l'ho imparato e non ho nessuna intenzione di farlo. Bianche, gialle, blu, è solo merda per lo stomaco. Va bene, comunque tu lascialo stare il matto di sopra. Ne abbiamo già tanti di problemi. Questa volta se non metteremo riparo nel nostro stesso appartamento ci annegheremo. Ed io con queste vertebre non potrò neanche portarti in salvo. Stupido. No, dai, no, l'acqua in faccia no, Stiamo veramente raggiungendo il limite. Ma guarda come mi hai ridotto, la maglia tutta bagnata. Io stavo solo scherzando. A volte davvero penso che convenga riderci su, sai. Fai piano con l'asciugamano. Ti sto asciugando, buffone! Non mi stai asciugando, mi stai strapazzando il collo, hai capito? Per favore, potresti asciugarmi con maggiore delicatezza? Ah, aia! Oddio, il trapezio, te l'avevo detto, è di nuovo bloccato. Ti prego, fai pressione qui dietro. Ecco, ti prego, piano, piano. Ah, ah, così, sì. Ah, stai attento. Ah, non vedi come sei conciato? Aia. E poi? Ah, chi se ne frega di quelli? Dai, pensa. Loro ci sfrattano e noi... noi ci ridiamo sopra a crepapelle. Sì, sei tu che ci ridi a crepapelle, non io. Ce ne sbattiamo noi dello sfratto. Non sono io che me ne sbatto, sei tu a sbattertene. Beh, comunque ridere è una soluzione. Una delle possibili soluzioni. Dici? Sarà. Però sai cosa penso? Se effettivamente non fossero i nostri tubi a perdere, se fosse il pazzo di sopra che rovescia acqua sul pavimento... Che c'è? Non l'hai sentito l'orologio? Quale orologio? Hai perso anche l'udito adesso? Ai, oddio. Ah, oddio. L'orologio, quello dell'appuntamento. Ecco io, oddio. Oggi le mie vertebre sembrano pezzi di brace. Oddio, sono bloccato, mi vedi? Sì, ti vedo. Ti prego, fammi... la manovra di allineamento. Distenditi sulla pancia, che ti massaggio. Oddio, che violenza. Puoi fare piano, per favore? Era questa mattina. Gli altri saranno andati. Ma chi? Quelli del palazzo. Sono andati tutti all'appuntamento. Ah, dici? Sei sicura? Era questa mattina? Ahia, piano. Cerca di essere più delicata, per favore. Sì, sono sicura. Se ne sono andati tutti. Ok, ok, ma non spingere troppo sulla schiena. Oddio. E poi io non avrei potuto seguirti con la schiena in queste condizioni, eh? Cos'hai di diverso? Ma come cosa ho di diverso? Le mie vertebre, no? Ah, l'avevo dimenticato. Sono giorni che mi parli delle tue vertebre. Soffri in silenzio, per favore. Perché non chiami un medico? Perché non mi fai una diavolo di lastra? Oh cazzo, vuoi fare qualcosa? Ma ti rendi conto? Questa cosa è importante. Vogliono buttarci fuori di casa. Si chiama automedicazione, ok? E poi io i medici non li posso proprio soffrire. Ed un RX mi direbbe quello che so già. E poi lo so benissimo che vogliono mandarci via. Ecco appunto, se lo sai... Allora, smettila di parlarmi delle tue vertebre. Senti, al prossimo appuntamento dobbiamo andarci a tutti i costi. Va bene, ci andremo, stai calma, ci andremo sicuramente. Chiaramente se le mie vertebre lo permetteranno. Dici così, ma poi... E intanto siamo chiusi, qui dentro come due topi. Facciamo finta di non crederci. E invece sappiamo benissimo quello che ci accadrà. Sfratto! Ma ti rendi conto? Riesci a capire? Sì, va bene, ma adesso non stare lì a disperarti, no? Qualcosa mi dice che se noi ci organizzeremo, se noi proveremo a sistemare la cosa pensando... Ma li senti questi rumori? Sì, stanno rompendo qualcosa. Sembrano venire dall'appartamento di sotto. Fa l'indiano, metti l'orecchio. L'orecchio? Cazzo, sì! Mettiamo l'orecchio per terra e ascoltiamo cosa accade lì sotto. Ma sei pazza? Come faccio io a mettere l'orecchio lì per terra? Ma mi vedi in che condizioni sono? La schiena a pezzi. Senti, fallo tu, no? Lo sapevo. Che c'è? Che succedi? Che senti? Un gran casino! Devono essere quelli dell'ATER. Chi? ATER, qualcosa tipo aziende territoriali, sì, per l'edilizia residenziale. Sono quelli che assegnano le case pubbliche, poi le vendono, le comprano. Insomma, sono quelli che eseguono gli sfratti. Figli di puttana! E chi c'è qui sotto? Se non ricordo male, devono essere i Garzanti, sì. Ma chi? La coppia di anziani? Proprio loro, sì. E che gli faranno? Li cacceranno a pedate nel culo. Ma non possono farlo. Guarda che se sono morosi gli fregheranno anche i mobili. E tu? Pensi di salvarci con le tue vertebre? Quelli sono ladri di Stato. Vabbè, dai. E i rumori di prima? Cosa stavano spaccando? Sono sempre quelli dell'ATER. Per essere sicuro che nessuno rientri in casa, sai cosa fanno? Rompono i sanitari ed anche le finestre. È incredibile. Dobbiamo aiutare i Garzanti. No, adesso tu stai calma, perché io ti conosco, eh? Non devi fare la stupida. Stai qui, ferma. Se vai giù non fai altro che peggiorare la situazione del palazzo. Dai, per favore, passami due pillole bianche. Devono essere per terra da qualche parte. Su, su, per favore, non farmi aspettare. Dai, dai, dai, dai, su. Oh! Insomma, vuoi darti una calmata? Hai bisogno di una badante, tu. Ma quanto sei stupida. Stupida, eh? Stupida, eh? No. Ora io... No, non lo devi fare. Ti prego, non accendere quel coso. No, io ho un mal di testa, ti prego. E poi i vicini si sono lamentati ieri sera. No, no, no. Mi avevi assicurato che non ci sarebbero stati problemi. Io la mia vita ce l'avevo. Una stanza in quattro, e allora nessuno ci avrebbe pensato. Cazzo, dovevo sbattermi per la fine. Ero dietro con l'università. In corsa in mano. Ma non sarei mai finita in mezzo alla strada. E poi sei arrivato tu e mi sono fidata. Siete tutti uguali. Mi hai portato qui promettendomi stabilità. Potrei fare la tua vita senza preoccupazioni. Non ti mancherà un tetto sulla testa. Mi dicevi così, ti ricordi? Non sopporto la solitudine. Mi fai compagnia in cambio della tua stabilità. Una coppia di fatti. Maledetto bugiardo. Volevi un'infermiera, vero? Perché venivi fuori da una storia di merda. Gli ho viste le foto di quella puttanella sul tuo comodino, sai? La tua schiena è solo una scusa per tenerlo qui. Perché non sei capace di farcela da solo. Perché il tuo dolore non è altro che senso di inferiorità. Sai cosa sei? Sei un vigliacco, uno che invece di stare con i Garzanti a prendere a pugni quelli dell'ate, se ne sta qui a ingoiare pillole bianche, gialle e blu, come il peggiore dei ipocondriaci. Sono sicura che le tue vertebre sono sanissime. Sono sicura che sei un figlio di puttana che dice un sacco di stronzate solo per tenermi qui. Adesso basta. Basta con questo casino adesso. Mi stai facendo impazzire. Sì, insomma, ho esagerato. E ora che fai? Stai piangendo. Ma non farmi ridere, dai. Ti fanno così male le vertebre. Vuoi che ti faccia la manovra? Era solo un momento di nervi. Tu vuoi sapere perché piango? Io non ricordo una sola ragione per cui piangere. Il pianto l'ho dimenticato. Ed anche il cielo quando piove. Che colore hanno le nuvole che portano la pioggia? E perché un cane impazzisce di gioia quando il suo padrone torna a casa? Vorrei essere un cane e gioire per questo, sì. Ma invece non so nulla. Io non so più nulla se non questa immobilità per via della mia schiena. Ma tu lo sai come mi sento io? Come la statua di un faraone. Come un Cristo in croce con un punteruolo inchiodato qui, nel bel mezzo di una vertebra. Perché non sono solo le mie gambe ad aver dimenticato un cammino. Sono tutti i miei pensieri ad essersi fermati. Ah, vorrei essere un cane che fa le feste, un cielo quando piove. Anche una montagna che fa crescere papaveri rossi sull'erba. Io vorrei essere una gioia. Vorrei essere una tristezza. Una volta risi di una donna che fingeva d'essere un papavero della montagna. E quella della foto nel comodino, sai. Ho creduto d'esserne felice per sempre. Ma tu credi che io sarei ancora capace di camminare sull'erba cercando papaveri? Potrei farlo con questo dolore alla schiena. Camminare e piangere possono essere la stessa cosa. Ma se dimentichi i colori, allora sei così solo da stare immobile su una sedia sognando d'essere un cane che fa le feste a qualcuno che torna a casa. Ah, io sono pieno d'amore. Sono vuoto d'amore. Guardai quella donna fare il bagno in un mare increspato. Credevo fosse inverno, ed invece era estate. Aveva un turbante in testa la donna dell'acqua. Forse è per questo sulla mensola del bagno colleziono libri che raccontano il deserto. Ci deve essere sul comodino una foto che... Ho camminato nel deserto, ho camminato sulle montagne in mezzo a papaveri rossi e c'era una pioggia che non ricordo. Forse un sole. Sì, un sole che entrava in una casa di campagna e mi diceva: dai, andiamo a fare un bagno. Ma pensi sia possibile che un sole parli ad un uomo che cammina in un deserto? Ho accarezzato la donna con il turbante in testa. Ho accarezzato le mie carezze ed ero triste. Ed ero così felice da piangerci su. Ma tu l'hai mai visto un cane piangere? Quando vidi i papaveri sulla montagna, dissi un paternoster. Feci anche il segno della croce nella speranza che qualcuno mi vedesse. Ed invece mi convinsi di ballare un tango. Un tango che non sapevo ballare. Ci pensi? Con la schiena in queste condizioni. Mi chiesero: balliamo? Ed io non seppi cosa rispondere, cosa ballare. Forse bevo un bicchiere di vino rosso e le lacrime prendono il sapore del vino come il riso di un ubriaco. Beh, il tango mette tristezza, sai, non c'è dubbio, soprattutto quando a raccontarlo è una donna seduta al bancone di un bar. Io esco da quel bar e fermo uno sconosciuto, gli dico: qui non torno più. Ma lui non mi ascolta, non dice nulla. Di quei giorni non resta un ricordo, neanche un cammino. Ah, ecco cosa mi resta. Una schiena su cui piangere un pianto prima di dimenticarlo. Ed una casa, la mia casa, ti rendi conto? Questa casa dove siamo ora, una casa dalla quale ci cacceranno via prima o poi. Ma tu credi davvero possa esserci qualcosa di peggio. Prendi quel maledetto telefono. Perché devo farlo io? Hai paura che ti chiami qualcuno? Paura io? E perché? Non lo so, non apri la porta, non rispondi al telefono. Tu invece, perché non lo fai tu? Questa è casa mia, eh? Io non lo faccio e basta. Allora lascia che squilli. Va bene. Maledetto telefono. Io adesso lo rompo, così sta zitto. Diventi okay? violento ora. Pensi ancora alla donna del comodino. Ma smettila. E poi, non è solo il telefono. Perché non vedi sopra a controllare la perdita dell'acqua? Uffa. Aspettiamo di annegare dentro casa? Devi dire a quel matto di smetterla di annaffiare. È lui che fa piovere in casa, ne sono certa, sì. Ho anche le prove. Prove? Sai che ti dico? Noi non abbiamo bisogno di un detective. Qui ci vuole soltanto un idraulico. Non fare lo spiritoso. La perdita dell'acqua è un problema, devi andare di sopra a controllare. Ma come posso andare sopra a controllare con la schiena in queste condizioni? Non posso camminare, hai capito? Ho ricevuto, io sto male. E poi tu ti stai preoccupando troppo di questa storia. Ultimamente non mi piaci affatto. Sei agitata. L'idea che questo sfratto... Basta! Non pronunciare quella maledetta parola. Guarda che se io non pronuncio quella maledetta parola non è che le cose cambieranno, eh. Non devi nominarla. Nessuno ci ha sfrattati. Non è ancora successo, sono solo chiacchiere del palazzo. Chiacchiere? Lei le chiama chiacchiere? Gli hai sentiti i rumori, i garzanti? E gli altri, quelli dell'altro giorno, quelli del primo piano? Allora perché non apri la porta? Sentiamo, perché non rispondi al telefono? Te lo dico io perché. Tu hai paura di quella maledetta comunicazione di sfratto. Hai paura che possano consegnarsela da un momento all'altro. È per questo che non esci più con i tuoi amici, che ti sei barricata qui dentro. Io barricata? E tu allora? Hai inventato la storia delle vertebre perché hai paura di muoverti. Mi hai fregata. Mi hai portata qui dopo un amore finito, perché volevi una che ti facesse da infermiera. Non mi hai detto la verità. Ti faccio massaggi, iniezioni, passate di verdure, e tu stai solo dimenticando una puttana che ti ha mollato. Ora prendo quelle maledette non foto toccarle. Dal comodino e le stappo. Non ti permettere di toccare le mie foto, capito? Togli le mani da quelle foto. Non ci devi provare. Io potrei anche metterti le mani addosso, capito? Dai, scusami. Siamo un po' tesi, non c'è dubbio, è evidente. Questa situazione è insopportabile, stai tranquilla. Noi troveremo una soluzione a tutto, sì. Bisogna avere fiducia. Vedrai, farò sistemare la perdita dell'acqua e troverò anche un cazzo di contratto d'affitto, ne sono certo. Piuttosto, coi tuoi amici dell'università? È un po' che non li vedi, vero? Perché non vai a farti una birra con loro, dai? Non mi va la birra. Oh, non mi va. Voi giovani siete affetti da paralisi del desiderio. Ma tu lo sai che io, alla tua età... Non mi interessa. Alla mia età non ti buttavano fuori di casa. Questo è vero. Non rompermi i coglioni con questa storia adesso. Vabbè, era solo così per dire, no? E comunque, senti, fai pure come ti pare, eh? Ecco, appunto, faccio come mi pare. Niente amici dell'università, niente birra. Ok. Oddio, no. Guarda, acqua anche qui in sala da pranzo. La situazione è più grave di quanto credevo. Te ne sei accorto finalmente? È pericoloso. Se l'acqua infiltra i muri, allora... I muri vengono giù, puff. Dai, smettila. Ma dai, non hai mai sentito dei crolli causati dall'acqua? Sì, cioè no. Insomma, non lo so. Ma perché mi parli di questo ora? Dai, stavo scherzando. Sto cercando di sdrammatizzare, non volevo mica spaventarti. Se dovesse succedere, se ci cacceranno... Dici che verrà altra gente ad abitare in questi appartamenti? Ma che ne so io non lo so. Venderanno il palazzo, questo è sicuro. E comunque, quelli che ora stanno andando via lo fanno a loro rischio e pericolo. Noi che faremo allora? Non ci divideranno, vero? Avremo un'altra casa? Anche qui non so che dirti. Gli affitti in giro sono alle stelle. Le case vecchie come queste le affittano a prezzi esagerati. Le altre, quelle nuove, le vendono. Ah, ma comprarle è impossibile. Beh sì, devi fare un mutuo per comprarle. E sei lì a pagare per tutta la vita un appartamento che pensi sia tuo. E invece della banca che ti sta prestando i soldi e che spera nel tuo fallimento per tornare in possesso della casa stessa. Tutto questo lo chiamano investimento. Io invece credo sia un modo per tenerti fermo. Sì, perché se tu sei pieno di debiti, se rischi in ogni momento di perdere per quello, tutto quello che stai comprando, se sei così con l'acqua alla gola, beh, sei fermo. Sei praticamente prigioniero del tuo stesso mutuo. Ah, quelli che sono andati via non sanno cosa li aspetta. Dici che non ci manderanno via? Guarda, non lo so, senti che casino sopra. Non lo so, no, non ci manderanno via. Questa volta possono anche sfasciarlo l'appartamento, ma noi non usciremo di qui. Te lo giuro, questa volta resteremo qui. Che bello. Non mi hai mai detto queste cose. Eh sì, effettivamente sento che dovrei comportarmi in maniera diversa con te. Anche io, sai. Aspetta. E ora che fai? Dai, ma perché fai buio? Oh, io non vedo più nulla. Aspetta, creo l'atmosfera. Ma dove le hai prese le candele? Erano nell'armadio. Ecco. Così mi piace. Cos'è che ti piace? Dai. L'atmosfera. Sai cosa siamo diventati? Ma no, che non lo so. Adesso siamo una nuvola che porta la pioggia. Mi sorprendi, sai. La casa è diventata un casino. Battono e sfasciano di sopra. C'è acqua per terra e caffè rovesciato e zucchero. Formiche dappertutto. Un tanfo incredibile. Ed ora invece queste candele accese. Qualcosa mi dice che le cose stanno cambiando, vero? Hai visto? È arrivato il sole. Ah, più tardi ti porto fuori. A volte siamo come animali che si fanno le feste, io e te. Oggi ho fame di gioia, sì. E mi sembra già di ingoiarla tutta. Ma dai, dimmi qualcosa. Penso una cosa. Ma perché ti alzi adesso, dai? Dove vai? Di nuovo a ballare? La musica? No, aspetti. Dovremmo uscire di qui, chiamare gli altri inquilini del palazzo e metterci d'accordo. Ecco, adesso mi piace. Un'organizzazione fra tutti i condomini, ne siamo in tanti, possiamo farcela insieme. Tutto questo tempo in casa, senza parlare con nessuno, stavo impazzendo. Sì, anch'io effettivamente stavo impazzendo. Ora credo sia giunto il momento di uscire di qui e cercare gli altri. Ma che fai adesso? Smetti di ballare? Perché? Guarda. Una busta sotto la porta. Sai già di cosa si tratta, vero? Beh, in fondo la aspettavamo. L'apro. Dai, vieni qui, facciamolo insieme. Siediti. Leggi. Ci buttano fuori. Tu permetti che io la bruci, vero? Figurati. Tanto sono quelli del comune, gli ufficiali giudiziari. Devono aver provato a contattarci al telefono. Sai quegli squilli? Forse erano loro. Anche la porta erano loro. Sì, non abbiamo aperto e ce l'hanno infilata sotto la porta la comunicazione. Eh sì, deve essere andata così. Abbiamo creduto di difendere l'appartamento barricandoci dentro. Ho creduto che non parlare al telefono o aprire guarda la porta. Guarda che lo abbiamo creduto entrambi, sia io che tu. E poi io con questa schiena, davvero patetico. Dobbiamo uscire di qui e chiamare gli altri inquilini. Ah, dimenticavo. Te la senti con la schiena? Ma mi alzo un attimo. Lasciami provare. Ma certo che me la sento. Sai, la rabbia è più forte del dolore in momenti come questo. Li senti? I rumori. Sì, sono loro. Sono tutti sulle scale. Si stanno organizzando gli inquilini del palazzo, li senti? Andiamo! Sì, dobbiamo andare da loro. Se c'è una soluzione a questa storia, la troveremo solo raggiungendo tutti gli altri nelle scale. Hai dolore alle vertebre? Guarda un attimo. Ma direi di no. Hai paura? Ma un po' sì. E tu? Mi tremano le gambe. Ah, non ci resta che fare presto allora. Ogni giorno mando giù un po' di veleno. Ogni giorno io che amo l'armonia e vado un po' a giocare con la mia follia. Non mi pare il caso di passare la vita assetati sotto il potere dei falliti. Oh, c'è guerriglia in cima via Rousseau e arrivano da tutta Roma. Arriva anche il questore in persona. Ora che ci hai tolto la parola prima di partire, così ci copriamo il volto per farci vedere. Devo sentirmi di morire a volte per rinascere più forte tra le tue rovine. E mando giù veleno ogni giorno. Devo avere una casa per andare in giro per il mondo. Il mio confine lontano, corro, le gambe che mi pesano come in un sogno. Ma se rallento, sento il fiato sul collo. No, non mollo, ho il sole dentro gli occhi, ho forse riflesso di specchi. La luce quando è tanta baglia come il buio. Mi trovo allo sbaraglio, devo tirare fuori il meglio di me. Dimmi, io sono pronto ad andare avanti. Vuoi seguirmi in giro per il mondo? C'è nascosto il senso dei modi di vita all'apparenza senza. È il conflitto per la sopravvivenza. Questa è la spiegazione, la gabbia è la nazione. Prima ci tirano gli avanti, poi ci osservano sbranarci. Questa è la mia casa. E ce ne andiamo in giro camminando al centro della strada. Questa è la mia casa, il cuore scoppia d'occa. C'è la porta, non c'è solidarietà senza rivolta. Questa è la mia casa, questa è la mia casa. Ce ne andiamo in giro camminando al centro della strada. Questa è la mia casa, il cuore scoppia d'occa. C'è la porta, non c'è solidarietà senza rivolta. Madre, madre, questo fuoco mi uccide, cosa mi succede? La miseria della sana vita quotidiana uccide. La casa esplode, cosa mi succede? Sarò un pazzo, rimpianti tanti forse ma nessun rimorso. Quando do non cedo il prezzo perché so che ti terrò tra le cose più care che ho. E arrivi per restare come una sorpresa attesa. Questa è la mia casa, le sorelle guardano negli occhi. Puoi vedere i prepotenti diventare vigliacchi. Quante volte devo essere umiliato per capire l'importanza dei conflitti. La mentalità da vinto, porta nella notte dove tutti i gatti sono grigi. La terra non è ferma, gira, i popoli si spostano, la gente è viva. Anche se la deriva nuota oppure affoga, è cosa nota. Osserva queste piazze, una stupenda miscela di razze le colora. Ora scorda la paura e guarda in faccia il vero. In questo viaggio di solo andato ognuno scende al suo volo. Per non restare con in mano niente, per quanto mi riguarda corro il rischio di frequente. Ce ne andiamo in giro camminando al centro della strada. Questa è la mia casa, il cuore scoppia, l'ho fatto la porta, non c'è solidarietà senza.